1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, la 136esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Eccola qua! Eccola qua! Alle 7:19 minuti e 30 secondi siamo in diretta 24 mattino. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Sant'Ambrose! Oggi è Sant'Ambrose! È il patrono di Milano, ma come vedete qui a Milano, alla sede del Sole 24 Ore di Radio 24, si lavora in onore del patrono. Peter Pescapè dice anche domani, no? Io domani starò a casa. Milan, grata qui, stare in ferie. Sono cose che capitano. Alle 7:20 minuti, allora, siamo pronti a leggere i giornali? Eccoci qui. Lunedì 7 dicembre, dunque Sant'Ambrose, come va scritto 20 minuti fa Aurora Lussana, ricordati oggi che è Sant'Ambrose, eccoci qua. E allora i titoli sono quasi tutti declinati su quello che è successo in Francia, con la vittoria, il trionfo elettorale alle regionali per il Front National di Marine Le Pen. L'onda Le Pen sulla Francia, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica invece Francia, lo shock Le Pen. La Stampa, la Francia svolta a destra. Lo stesso titolo, svolta a destra, è il titolo dell'Unità in prima pagina. Francia, la paura premia Le Pen, questo il Messaggero. Mentre Libero, la Francia se destra. Il titolo del giornale, il voto umilia la sinistra, e il Fatto Quotidiano, la Le Pen ringrazia il califfo. Come vedete, tutte le aperture sono dedicate a questo. Tralascio un attimo l'apertura del Sole 24 Ore perché la vedremo tra poco. Prima voglio però partire dalla vicenda delle banche. Allora, una vicenda anche complicata, ma che ora vede molti correntisti scendere in piazza, protestare contro il governo, perché la storia è il fallimento di quattro banche che sono state salvate, e dice ieri anche in un'intervista al Corriere della Sera Renzi, lo abbiamo fatto con orgoglio, perché altrimenti non salvando quelle quattro banche il lunedì successivo quelle banche non avrebbero aperto, con perdita di posti di lavoro, perdita di tutti i soldi dei correntisti, insomma sarebbe stata un po' una disgrazia. Però cosa è successo? Che col salvataggio di Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Cassa di Ferrara, moltissimi correntisti sono viste le obbligazioni azzerate, insomma hanno perso molti risparmiatori da un giorno all'altro soldi, e allora sono scesi in piazza a protestare dicendo: in alcuni casi abbiamo firmato contratti o sono stati fatti firmare contratti a nostri genitori, ai nostri nonni. È nato anche un movimento di nipoti che difende i nonni, a dir loro truffati da persone che alle banche hanno offerto dei contratti, obbligazioni, dicendo sono prodotti sicuri, e poi il risultato è questo. Ora, come intende procedere il governo? Un fondo per i risparmiatori. Il governo prepara il decreto sulle banche popolari, sulle banche, sulle BCC. Il fondo di solidarietà alimentato in parte anche dalle banche, o un credito d'imposta sull'IRPEF. Il governo è pronto a valutare le proposte di maggioranza e opposizione, introdurre in stabilità un sollievo almeno per i risparmiatori più deboli che hanno perso i loro investimenti nelle quattro banche. Così racconta Mario Sensini a pagina 17 del Corriere. Ora però il decreto proporrà, si pensa, una dote di 100 milioni, mentre si pensa e si stima che le perdite sono 350 milioni. Dunque, a fronte di 350 milioni di perdite, può darsi che si arrivi a una copertura solo di 100 milioni. Tanto che Berlusconi subito dice: bisogna fare di più, bisogna tutelare tutti. Il dato di fatto, anche per Repubblica, Valentina Conte a pagina 15, in piazza i clienti delle banche in crisi, il piano salverà un terzo dei risparmi. L'idea è questa, cari care persone, cari italiani che vi sentite truffati, l'idea è che su 350 milioni persi forse si coprirà 100-120 milioni, un terzo delle perdite. I possessori di bond dicono questa è una rapina legalizzata. C'è chi è sceso in piazza anche ieri a Montecitorio dicendo hanno salvato la Grecia e noi no. La questione è molto delicata. Noi, distrutti dalle banche, dicevano di stare tranquilli, anche titolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano. A Montecitorio ieri la protesta degli obbligazionisti, degli istituti commissariati. Loro ovviamente dicono abbiamo perso tutto. Anche per Libero il corteo degli sbancati e Matteo gli fa l'elemosina, Matteo ovviamente a Renzi. Tra l'altro su Libero c'è un'intervista di Luca Telese a Deborah Serracchiani, un'intervista in cui si parla di politica, si parla di tanto, ma di tanto altro, ma Deborah Serracchiani racconta che anche lei è finita per un'altra vicenda, un'altra banca, la Banca Popolare di Vicenza, è finita in qualche modo fregata, gabbata, perché ha perso 18.000 euro. Di che parliamo? Beh, è andata in modo molto semplice. Io e Riccardo, cioè il suo compagno, avevamo un bisogno di un mutuo. Abbiamo cercato la proposta più allettante, paghiamo 1.000 euro al mese per una casetta friulana a tre piani. E allora, perché siete diventati obbligazionisti? Semplice, siamo diventati soci perché ci offrivano un tasso di favore nel mutuo e io ho ceduto. Quanto abbiamo perso? Riccardo sta facendo ancora i conti, credo 18.000 euro. A sentire Riccardo, dice Deborah Serracchiani, non gli avevano prospettato tutti i rischi. Insomma, quindi da vice segretario del PD condividi il decreto, chiede Luca Telese a Deborah Serracchiani. Beh, intanto c'era la necessità di salvare i soldi dei correntisti, i posti di lavoro, mettere in sesto il sistema che ha risentito della crisi. È stato fatto meglio che altrove. Abbiamo ottenuto di più con il sistema bancario. La Germania ha speso molte risorse per salvare il proprio sistema. Certo, c'è un Riccardo, il suo compagno, e anche la Deborah Serracchiani arrabbiata per aver perso 18.000 euro. Come vedete, insomma, capita a tutti. Però di questa vicenda parleremo anche dalle 8.15 con Oscar Giannino. Intanto vi segnalo storie di burocrazia. Dario Di Vico sul Corriere della Sera ogni giorno ne racconta una, l'ultima che ha scovato e che vi racconta a pagina 27 del Corriere della Sera sotto il titolo Il freno della burocrazia è questa: cambia il sindaco, si ferma l'Eco City da 350 milioni di euro. È una vicenda che riguarda ancora Segrate, come aveva raccontato nei giorni scorsi, riguarda gli investitori tedeschi della Phoenix Development di Bonn e il sindaco del PD Paolo Micheli, che ha bloccato un investimento da 350 milioni di euro che a detta dei proponenti dovrebbe realizzare in una delle zone delle porte di Milano, una piccola smart city, e che i tedeschi vogliono finanziare in alleanza con una società di project management italiana, la RED di Angelo Turi. Dovrebbe così sanare un vecchio e sballato investimento pomposamente chiamato Santa Monica e che ha lasciato in difficoltà 150 famiglie. Tutto però sembra bloccato. Il sindaco PD Micheli dice: non svendo il territorio. È una storia di burocrazia e di blocchi oppure no? Beh, questo si chiede Dario Di Vico nel rappresentare questa storia comunque interessante a pagina 27 del Corriere della Sera. A proposito di storia interessante, questa invece mi ha molto molto colpito. Per carità, ci sono tanti progetti che sono ostacolati da comitati, da proteste di piazza, ma qui forse in provincia di Chieti la situazione è sfuggita di mano. Pagina 17 della Stampa: si oppone al nuovo elettrodotto, le chiedono 16 milioni di euro di danni. Beh, Flavia Amabile racconta la storia di Silvia Ferrante, che assieme al compagno e al figlio di 5 anni sono trasferiti a Paglieta, in provincia di Chieti, perché volevano tornare un po' da Roma alla terra di origine. E qui coltivano verdure, ortaggi, hanno un terreno, insomma portano avanti la loro vita tranquillamente. Più o meno un paradiso, finché non arriva Terna, l'operatore che gestisce la rete elettrica, e vuole realizzare un elettrodotto da 380 kV, che è destinato a attraversare 16 comuni e anche il terreno di questa signora, o comunque lì vicino. Che fa questa signora? Partecipa a catene umane, a proteste, si oppone, risultato, visto che c'è un pilone che passerà a 80 metri da casa sua, e lei non lo vuole. Risultato, viene citata in giudizio 24 volte con richiesta di risarcimento che va dai 630.000 euro ai 900.000 euro in ogni atto, un totale di 16 milioni di richiesta di danni. L'unica tra i manifestanti a avere un numero così alto di citazioni, perché tutti gli altri un po' si sono messi d'accordo, hanno ottenuto indennizzi, insomma si sono accontentati. Risultato, si trova 16 milioni di euro di danni richiesti questa signora, che è fotografata anche con compagno e figlio sulla stampa, e la cui storia viene raccontata a pagina 17. Ma eccolo qui l'articolo che mi fa sare della giornata, quello che mi fa tenere, se siete alla guida voi, le mani sul volante. Quei 20 partitini entrati in Parlamento senza passare dal voto. Pagina 11 della Stampa, Marco Bresolin racconta come ci siano 20 partiti in Parlamento rappresentati senza che nessuno li abbia votati. Perché quando siamo andati a votare non c'erano, non si sono presentati col loro simbolo. Ma poi che succede? Si entra in Parlamento, si hanno delle crisi di coscienza. Oh, non riesco più a stare nel Partito Democratico. Oh, non riesco più a stare in Forza Italia. Oh, non riesco più a stare, che ne so, nella Lega. Non riesco più a stare di qui. E si fanno il loro partito. E quindi ci sono da Italia Unica a Possibile, Liguria Civica. C'è un parlamentare, Liguria Civica. Moderati. Puglia. Sapete che c'è il partito Puglia? Voi l'avete votato? No, ma in Parlamento è rappresentato. Base Italia, Popolari per l'Italia, Alternativa Libera, Idea. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Qua Baris dice che come legge le notizie Alessandro Milan è una accusa mondiale. Oh, e allora, caro amico di Bari, grazie. Ovviamente potete mandare sempre le vostre sigle anche al 349-238-6666, cioè la nostra casella di messaggi anche WhatsApp, e così come la segreteria telefonica è 02-4652-4492. Noi vi accogliamo. Allora, tutti i giornali aprono su Marine Le Pen, il Front National che trionfa in Francia alle regionali, è il primo partito in 6 regioni su 13, la svolta a destra dunque della Francia, tutti ad analizzare il perché e il per come, alcuni giornali come Repubblica giurano, sono sicuri che insomma siano stati anche i recenti attentati, la paura dell'ISIS, il timore a portare al trionfo Marine Le Pen. Scrive per esempio Bernardo Valli a pagina 2 di Repubblica: quel che ha consentito al Front National di diventare il primo partito di Francia è stata l'emozione suscitata dalla strage del 13 novembre. I 130 morti di quel venerdì sera si sono trasformati nelle urne in un 28,64% di voti, che ha dato al più grande partito populista d'Europa il primato in una delle maggiori società politiche dell'Occidente. I suffragi, di solito influenzati dai tassi di occupazione, dall'andamento dell'economia o altri classici problemi della società, sono stati determinati dalla sicurezza, vale a dire dal timore del terrorismo jihadista. Questa almeno è l'analisi molto molto sicura di sé di Bernardo Valli su Repubblica. Basta saltare sulla Stampa, Cesare Martinetti da Parigi invece dice, non fa un'analisi così netta. Tutto questo, scrive Martinetti, non si può più interpretare con la vecchia formula del voto di protesta. Non basta più. Bisogna prendere atto che la politica sta cambiando. Inutili le vecchie formule che ancora si sentono oggi in Francia, tipo far fronte all'estrema destra, che è un modo appena più reticente di dire no ai fascisti. Più lo si dirà e più voti andranno al Front National. Il paese è già altrove. Sono anni che sociologi e sondaggisti avvertono un rimescolamento nel profondo della società. E dunque per Martinetti i voti al Front Nazionale arrivano in gran parte dalle classi popolari. Molti dei nuovi elettori frontisti hanno votato comunista per anni. È il voto dei delusi, dei dimenticati. È il voto di un paese profondo al quale la politica non sa più parlare. È un voto populista, post-ideologico, e in questo senso introduce stabilmente nel paesaggio politico un soggetto nuovo, ma non per questo antipolitico. Dunque, per La Stampa, invece, superati gli schemi della destra o degli estremisti, ma è più un voto, se volete, di protesta e di un paese che non si sente rappresentato dalla politica classica. Comunque la vittoria in Francia è l'apertura per molti giornali, come si guarda ovviamente all'estero per la minaccia terroristica. Allora Obama ha parlato dopo la strage di San Bernardino, ha detto non arrendetevi alla paura. Il presidente ha chiesto di intensificare gli sforzi a casa ma anche all'estero, e ha fatto un invito anche ad attingere a tutti i valori americani contro il terrorismo, giustizia, uguaglianza e libertà. Insomma, Obama che ammette l'America è stata colpita da un'azione terroristica. Tra l'altro vi segnalo un'intervista a John Kerry, il segretario di Stato americano, e l'intervista è sulla rivista Rolling Stone, ma viene proposta dal Corriere della Sera a pagina 9. Possiamo sconfiggere l'ISIS con Al-Qaeda, ci siamo riusciti, ma dipende da Russia e Iran. Segnalo anche un'intervista sul secolo XIX, è ripresa anche dalla Stampa, di Paolo Crecchi al Dalai Lama. Il Dalai Lama che dice, beh, insomma, dobbiamo dialogare con l'ISIS. Capito? L'ottimismo del Dalai Lama, va bene. Sua Santità, ma come? Ci vuole il dialogo, bisogna ascoltare, capire, avere rispetto dell'altro, non c'è altra strada. Sì, ma l'ISIS taglia teste, Sua Santità. Bisogna parlare col cuore, essere compassionevoli, educare. La Germania è stata molto generosa a accogliere i rifugiati, li sfama e li veste. Ora dovrà anche educarli. Ah, in questo il Dalai Lama è molto renziano. Allora, il Dalai Lama, dobbiamo dialogare anche con l'ISIS per avere la pace. Questo è il titolo della Stampa a pagina 5. A proposito di ISIS, mi ha colpito due notizie. Mi hanno colpito. Una è quella relativa a Repubblica, così l'ISIS recluta gli scienziati per costruire armi chimiche. In realtà è un articolo del Leading European Newspaper Alliance che è riproposto da Repubblica, Cornelia Heindrich, che racconta di come lo Stato islamico stia cercando di reclutare tra i foreign fighters soprattutto laureati in fisica, chimica e informatica, perché secondo numerosi esperti avrebbero già avvertito che il prossimo passo dell'organizzazione terroristica potrebbe essere un attacco con armi biologiche, nucleari o chimiche. Questo è un po' inquietante, se non molto inquietante. La notizia la trovate su Repubblica. Come mi ha incuriosito molto il reportage che Vittorio Sabadin sulla Stampa racconta a pagina 7 e riguarda una operazione di quelle affascinanti a loro modo, di intelligence, militari, di come insomma Londra abbia ucciso Jihad Dijon. Sapete che Jihad Dijon è quello che ha decapitato alcune persone in Siria, tra cui anche il reporter americano James Foley. Tre elicotteri a pile e un comando della SAS, così Londra ha eliminato Jihad Dijon. La cronaca a pagina 7 è stata svelata dal Mail on Sunday e riguarda l'11 novembre scorso l'operazione di due elicotteri Chinook americani che hanno trasportato nel deserto siriano 8 uomini del SAS, il più piccolo e letale segreto reggimento britannico. Quindi 8 uomini britannici che sono arrivati, due veicoli adatti a muoversi nella sabbia, simile ai dune buggies di moda degli anni 70. Il comando ha percorso circa 50 km verso Raqqa. È arrivato lì alle 3 del mattino, hanno scavato una buca a 6 km dall'abitato di Raqqa e si sono nascosti per tutto il giorno. La sera successiva sono partiti tre nanocopters, cioè piccoli elicotteri dotati di telecamere ad alta definizione con visione notturna. Avevano come obiettivo una casa individuata a Raqqa, dove secondo l'intelligence britannica si nascondeva Jihad Dijon. Il piccolo elicottero sorvola la zona, inquadra l'edificio e manda le immagini direttamente al comando che è nascosto lì vicino in una buca a racca. Alle 20:30 il primo elicottero, si scaricano le pile, dunque viene fatto rientrare. Parte un altro piccolo elicottero, alla fine viene individuato alle 11:40 di sera Jihadi John, che esce dal palazzo, viene dato l'ordine, viene lanciato un drone Reaper Predator armato con un missile e nel giro di pochi secondi Jihadi John salta in aria. Beh, questo è il racconto sulla stampa, che ripropone ciò che il Mail on Sunday ha fatto uscire ieri, di come Jihadi John sia stato ucciso dall'intelligence e dai militari britannici. Lo trovate appunto sulla stampa. Ma è il momento della capolista. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno Alessandro, scusami, ero un po' distratto perché mi veniva in mente una vecchia canzone. 0-0 anche ieri. 0-0 anche ieri. Sto Milan qui. Cioè, tu hai organizzato tutto con Peter Bescapè a mia insaputa. No, assolutamente. È stata una cosa probabilmente casuale. Si vede che anche Peter si ricorda di questa canzone, certo. Anche se è molto giovane lui, quindi... È strano che... Ma è una canzone, come vedi, sempre attuale. Sì, effettivamente. Non ha perso di attualità. Carpi Diem. Ti voglio parlare della classifica. Non di quella classifica che ti angustia, bensì... Beh, una classifica che, insomma, comunque non ci sta. Stare tranquilli, quella dei reati, che troviamo oggi sul Sole 24 esatto. Ore. L'apertura del Sole. Abbiamo questo calcolo statistico di quasi 8.000 reati al giorno. Interessante è vedere come appunto i reati, le denunce di reato, perché naturalmente su quello è necessario basarsi, hanno un andamento differenziato, quindi le rapine sono diminuite mentre sono aumentati i furti e i borseggi, e poi trovi all'interno le classifiche dei, non voglio infierire adesso, no, ma vai avanti, parla di classifica, fai pure. Delle province con l'incidenza appunto dei reati ogni 100.000 abitanti. In testa è Milano, però tallonata da Rimini, quindi provincia di Rimini, che ha un piazzamento tra i Rimini di un po' non è vicino a Carpi. No, però non tantissimo, effettivamente. E quindi, non essendo vicino a Carpi, perché? Peraltro ha giocato a Modena, ma vabbè, ma non... Comunque, poi trovi sempre questioni di primati, perché parliamo di prima casa sulla Tasi. No, primati nel senso di capoliste. La prima casa, cioè l'abitazione principale, che è importante definire correttamente per il pagamento della Tasi e dell'IMU, perché qui noi siamo qui da Frizzi e Lazzi, ma il 16 si paga, attenzione che si paga, l'abolizione di cui si sta discutendo riguarda il 2016, lo ricordiamo oggi sul Sole 24 Ore. E poi, tra le molte altre cose, invece l'andamento lento, diciamo paragonabile a quello di alcune squadre del campionato, di alcuni cantieri dell'agenda digitale, cioè ci sono progetti digitali che vanno molto veloce, magari un passo alla volta, come un 1-0, no? Mm-hmm. E invece altri progetti che vanno a rilento. Ti segnalo la carta d'identità elettronica, di cui parliamo circa da una ventina d'anni. Sì, più però o meno, effettivamente sta arrivando. È in fase sperimentale, se provi a contare le settimane batte anche l'abolizione delle province. Sì. Lo trovi naturalmente sul Sole 24 Ore. Ti parliamo anche di voluntary disclosure, caro Alessandro. Bene. Perché adesso si entra nella fase 2, c'è il contraddittorio con le entrate. Sei preparato per il contraddittorio? Ho messo la cravatta. Ah, ecco, bravo, hai fatto bene. E poi ti parliamo anche, tra le altre cose, nelle pagine di norme e tributi, del congedo a ore. Sai che è una novità questa del congedo a ore, come si concilia con altri tipi di permessi. Questo e molte altre cose, naturalmente l'esperto risponde, l'ebook e così via, però adesso ti vorrei salutare, se Peter cortesemente mi rimette la sigla quando io lancio invece la mia abituale parola. Vai, tranquillo. Traffico! 0-0 anche ieri, sto Milan qui. Alessandro Milan, il gianduiotto del giornalismo. E allora inizia l'anno santo, il giubileo, e allora che dire, è tutto pronto per quel che riguarda la sicurezza. Il ministro Gabrielli, il prefetto Gabrielli, il prefetto di Roma, ieri ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione In Mezz'ora, e stralci di questa intervista oggi finiscono sui giornali. Sicurezza, parte il piano Gabrielli, garantiamo lo sforzo, non il risultato. Questo è il titolo del Messaggero. A pagina 6, sono un funzionario dello Stato, dice Gabrielli, spetta a me dare l'ordine di un'eventuale evacuazione in caso accadesse qualcosa, abbiamo messo in campo tutte le forze possibili, è una minaccia globale indiscriminata, indistinta, non diamo la garanzia del risultato, diamo la garanzia dell'impegno. Così alla vigilia dell'apertura dell'anno santo, tra l'altro il Messaggero fa sapere a pagina 7 che gli hotel sono vuoti, i prezzi sono in calo, insomma una paura che sta contagiando tutti i turisti. Ci sono ancora 48.000 posti letto liberi, tra cui e per questo ci sono, dice il Messaggero, offerte e ribassi per la caccia ai pellegrini. Va bene, vi è mancata la politica? C'è tutto il dibattito Renzi, Sala, Pisapia, Balzani, Pisapia, Renzi, Pisapia, Balzani, Sala, Pisapia, basta. Sui giornali vi prego, basta, abbiate pietà. C'è ancora il dibattito sul Movimento 5 Stelle, l'unità da qualche giorno sta attaccando il sindaco del Movimento 5 Stelle, il sindaco di Livorno, Nogarin, dicendo che non ha pagato la tassa dei rifiuti per un immobile che ha affittato temporaneamente in passato a Livorno. Nogarin ha detto l'ho affittato solo per 6 mesi e dunque tutti sanno che la tassa è dovuta dal proprietario e non da chi affitta. Oggi l'unità insiste con Maddalena Carlino a dire forse Nogarin non conosce il regolamento comunale del comune di Livorno, che invece spiega che sono tenuti a presentare al comune entro i 30 giorni successivi all'inizio del possesso, occupazione o conduzione di locali o aree tassabili, apposita dichiarazione unica dei locali ed aree tassabili valide ai fini Tari. Insomma, l'unità insiste, doveva presentare la denuncia sulla casa, non l'ha fatto e la tassa non l'ha pagata. C'è questa disfida a colpi di ho ragione io tra l'unità e il sindaco di Livorno Nogarin. C'è anche un dibattito sui giornali, oggi alcuni giornali dedicano 2 pagine al tema dell'utero in affitto, quella pratica per cui alcune coppie vanno in paesi, nei pochi paesi per la verità in cui è consentito in tutto il mondo, in India ma c'è anche credo in Ucraina o in altri stati, e pagano una donna per affittare il suo utero, e che questa donna porta avanti la gravidanza per 9 mesi, poi il bambino, poi mette al mondo il bambino, che viene dato alle persone, alla coppia che ha stipulato un regolare contratto e si porta a casa il bimbo. Allora, perché è rinato questo dibattito? Perché alcune donne di se non ora quando hanno detto questa pratica è sbagliata, e da qui insomma è nato il dibattito sui giornali. L'utero in affitto divide le femministe, Repubblica, sbagliato dire di no, lo scontro tra le due anime di se non ora quando, l'appello danneggia la legge sulle unioni civili, dicono alcune. C'è il dibattito oggi, il Corriere della Sera ospita per esempio due idee contrastate. Luisa Muraro, filosofa, una delle maggiori teoriche del femminismo, che dice e scrive sul Corriere: le donne e 9 mesi di vita trasformati in merce, tutto ciò è sbagliato. Mentre Emanuele Trevi, romano, scrittore, critico letterario, dice è un contratto libero e dunque non si può chiederne il bando. Il dibattito sull'utero in affitto, ma tutti i giornali dedicano almeno 1 o 2 pagine a questa. Ma siamo al momento della carta costa, siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Lo trovo un'intera pagina sulla Stampa. Vittorio Sabadin che dice: ecco i regali a Natale che le donne non vogliono. No, eccoli qui. Gli Spanx. Non guardatemi, gli Spanx, cioè quelli che vanno di moda, che cavolo sono, non lo so, le guaine rimodellanti, che non è bello regalare, un libro di ricette dietetiche, no, non, alle donne questi regali non si fanno. Non si dice che sei una buridona di 300 kg. No, non si regalano questi libri, ma vi rendete conto, una pagina, quello che le donne non vogliono a Natale. Ma chi se ne frega?